Allora, buonasera, questa sera con Bartolo Gariglio, Emilio Gentile e Goffredo Fofi si presenta la ripubblicazione in anastatica dei volumi usciti nella casa editrice di Piero Gobetti fra il 1922 e il 1929. Un'attività che dunque prosegue 3 anni dopo la morte a Parigi di Gobetti. I volumi hanno delle nuove postfazioni, sono libri praticamente introvabili se non nel mercato antiquario. L'iniziativa poi, come spiegherà meglio Bartolo Gariglio, è del Comitato Edizioni Gobettiane, del Centro Studi Piero Gobetti e delle edizioni di Storia e Letteratura. E la direzione è affidata proprio a Gariglio. Sono complessivamente 114 volumi che l'editore si propone di pubblicare nei prossimi 10 anni. E già i numeri, 114 volumi, oltre ai nomi degli autori pubblicati, dicono molto di questa attività di Gobetti, che forse non ha avuto l'attenzione che meritava. 114 volumi, ma si è iniziato con Risorgimento senza eroi dello stesso Gobetti, poi La libertà in Italia di Luigi Sturzo, Io credo di Prezzolini, La libertà di John Stuart Mill e poi gli ultimi usciti che sono quelli qui, sono di Wolfgang Goethe Fiaba e di Ubaldo Formentini Collaborazionismo. Questi 114 autori, questi 114 volumi definiscono un tracciato culturale fra i più stimolanti del Novecento italiano. Dalla storiografia all'analisi politica, dalle discipline economiche fino alla letteratura e alla critica d'arte. Fa davvero impressione scorrere l'elenco degli autori che Gobetti pubblica, andando un po' a casaccio: Salvatorelli, Nitti, Salvemini, Einaudi, Amendola, e poi Goethe e Longfellow, fino a Malaparte e al già citato Prezzolini, che sono autori poco in sintonia con Gobetti. E poi i cattolici, Sturzo, Igino Giordani, e quindi Ossi di Seppia, che nel 1925 segna l'esordio di Eugenio Montale. E forse basta questo titolo, che non appartiene alle discipline in cui Gobetti è maggiormente versato. Ma poi lo stesso Gobetti però pubblica, scrive, è autore di un volume su Felice Casorati. E proprio questa raccolta di poesie di Montale a dare il senso, io credo, di quanto l'attività editoriale dell'intellettuale torinese sia capitale per tutta la cultura novecentesca. Esattamente come gli Ossi montaliani lo sono per la poesia del XX secolo. Una spiccata curiosità intellettuale, un'attitudine a varcare le barriere disciplinari, la tendenza a riconoscere stimoli culturali anche in opere distanti da sé, una duttilità nell'organizzazione e nella promozione dell'attività intellettuale. Queste sono solo alcune delle caratteristiche del Gobetti editore, di cui poi parleranno molto meglio di me i tre relatori. Un'attività di cui Gobetti concepisce fin dagli esordi gli aspetti, chiamiamoli così, tecnici, quelli più pertinenti al profilo imprenditoriale, di imprenditore della cultura. Basti ricordare la lettera a Montale, in cui Gobetti fa presente al poeta quanto gli sia venuta a costare l'edizione degli Ossi. Dice: sulle 1500, 2000 lire, forse di più, e quanto sia necessario che il poeta si attivi perché vengano procurate, dice, non meno di 200 prenotazioni a 6 lire, sperando che qualche copia si venda poi. Montale troverà circa 240 prenotazioni, 25 delle quali soltanto dalla libreria di Umberto Saba. Un'ultima citazione prima di passare la parola ai relatori. Fu lo stesso Gobetti a descrivere il suo mestiere di editore. Traggo questa citazione dall'articolo che oggi su Repubblica ha scritto Paolo Mauri, il quale la riprende da una serie di frammenti autobiografici pubblicati da Franco Antonicelli e da Vanni Scheiwiller. Il titolo di questo libretto è L'editore ideale. Dice Gobetti: ho in mente una mia figura ideale di editore. Mi ci consolo la sera dei giorni più tumultuosi, 5-6 per ogni settimana, dopo aver scritto 10 lettere e 20 cartoline, rivedute le terze bozze del libro di Tilger o di Nitti, preparati gli annunci editoriali per il libraio, la circolare per il pubblico, le inserzioni per le riviste, litigato col proto che mi ha messo un errore nuovo dopo 3 correzioni. Penso un editore come un creatore. Creatore dal nulla, se egli è riuscito a dominare il problema fondamentale di qualunque industria. Il giro degli affari che garantisce la moltiplicazione infinita di una sia pur piccola quantità di circolante. Il mio editore ideale, che con una tipografia e un'associazione in una cartiera controlla i prezzi, con 4 librerie modello conosce le oscillazioni quotidiane del mercato, con 2 riviste si mantiene a contatto coi più importanti movimenti di idee, li suscita, li rinvigorisce, non ha bisogno di essere Rockefeller. Ecco, allora io comincerei proprio dando la parola a Bartolo Gariglio, che è il direttore di questa collana presso le edizioni di Storia e Letteratura, che ci illustra, presumo, come nasce questa iniziativa e come si sviluppa. Ringrazio moltissimo, ringrazio molto tutte le signore e i signori presenti. La figura di Piero Gobetti è, già come ha precisato il nostro moderatore, una figura assolutamente innovativa nel campo della editoria. Einaudi, scusa, Benedetto Croce lo definisce, ecco, uno straordinario scopritore di talenti. Accanto agli autori più affermati, è in grado di scoprire giovani, insomma, come Montale, D'Orso, Fiore e tanti altri, Galati, Giordani, figure molto giovani, figure di giovani che Gobetti lancia nel mondo della cultura, dell'editoria. Alla figura di Gobetti ha per esempio dichiarato varie volte di ispirarsi Giulio Einaudi. Giulio Einaudi diceva di avere come modello di editore, di aver avuto nei suoi anni giovanili e poi nel corso della sua vita la figura di Gobetti. Gobetti non è un improvvisatore, ma ha in mente una figura molto molto chiara di editore, come è già stato detto. Bellissima è la citazione che ha fatto il nostro moderatore e che è uscita su Repubblica, è tratto dal volume di Antonicelli, L'editore ideale, che raccoglie alcune pagine di diario diciamo, di Piero Gobetti e che, se saremmo vivi, potrebbe essere pubblicato come ultimo volume di questa nostra corsa, se riusciamo a concludere la pubblicazione dei 114 volumi dell'edizione Gobettiana. Ce ne potrebbe essere, se il dottor Steil è d'accordo, un 115esimo, l'editore ideale come sintesi di queste, di questa lunga diciamo carellata. Già dei nomi che si sono stati indicati, ecco, si vede come in questo periodo di crisi, ecco, che ha non solo un carattere economico, ma direi morale, culturale, che tocca, insomma, le fibre più profonde del nostro vivere civile, io credo che la proposizione di questi volumi di Gobetti, dei suoi amici, abbia una funzione non solo culturale, certamente importantissima, ma anche etica, anche civile. Con queste pubblicazioni noi comunichiamo alle nuove generazioni alcuni degli autori più importanti degli anni 20 del secolo scorso, libri che sono, si possono reperire faticosamente soltanto e a prezzo molto elevato presso le editrici antiquarie. Ecco, ho proposto l'iniziativa di pubblicare questi volumi un paio di anni fa al Centro Gobetti, del cui direttivo faccio parte. L'iniziativa piacque moltissimo a Carla Gobetti e agli altri membri del direttivo, ma parve di tale rilievo che sembrò dovesse farsene carico non soltanto il Centro Gobetti, ma diciamo un comitato più vasto di cui fossero chiamati a far parte esponenti di varie istituzioni culturali, l'Accademia dei Lincei, l'Istituto Sturzo, col professor Malgeri, professor Giovagnoli, professor Malgeri, che ringrazio, è qui presente, la Fondazione Basso, rappresentata nel nostro comitato da Mariuscia Salvati, da Claudio Pavone. Mariuccia Salvati è qui presente, la ringrazio tantissimo perché ci sollecita anche molto ed è stata lei a suggerirci per esempio Nadia Urbinati per la postfazione della Libertà di Mille, e ho visto che già oggi ci faceva delle proposte molto interessanti. Ecco, quindi è stato costituito questo comitato, poi fan parte l'Accademia delle Scienze di Torino, l'Università di Torino, l'Università del Piemonte Orientale. È stato elaborato da questo comitato il progetto, che prevede non soltanto la ristampa in anastatica per ridare, diciamo, in qualche modo l'atmosfera del volume gobettiano, ma anche la presenza di una postfazione per approfondire criticamente il senso del volume e la sua importanza. Accanto a questo, ogni volume è accompagnato da una biografia dell'autore e da una nota al testo che presenta gli aspetti tecnici, diciamo, del volume e, qualora non lo faccia l'autore delle postfazioni, il rapporto più stretto tra Gobetti e l'autore. Elaborato il progetto, naturalmente non eravamo neanche a metà della strada, perché avevamo bisogno di trovare un nostro editore ideale e avevamo contattato alcuni editori, preso contatto con alcuni editori, i quali o ci chiedevano somme enormi o erano inaffidabili. E mentre eravamo nel più profondo di una cupa disperazione, naturalmente appare una luce. le edizioni di storia e letteratura maturano, ecco, maturano loro stesse il desiderio di pubblicare i volumi delle case editrici di Piero Gobetti e si rivolgono a Luigi Boranate, componente del centro Gobetti, il quale naturalmente ci mette in contatto e diciamo è stato credo per noi una esperienza molto felice e mi pare che anche la casa editrice sia per ora contenta di come stanno andando le cose, di come stanno andando le cose. Devo dire, la casa editrice ha sposato appieno il nostro progetto, quindi anche l'idea delle postfazioni, delle note al testo, delle biografie, cioè una serie di costi supplementari per la casa editrice, e non era facile. Abbiamo nostro problema è stato poi quello di trovare gli autori delle postfazioni che hanno accettato di lavorare tutti gobettianamente o per un costo simbolico. Ecco, quindi devo dire, queste edizioni si sono potute fare grazie alla sensibilità, dei postfattori, la cui scelta è affidata, diciamo così, totalmente al comitato e, come avete visto, il comitato non ha fatto scelte ideologiche, ma si è mosso con assoluta libertà, direi, intellettuale, scegliendo autori diversi purché fossero i migliori o ritenuti migliori dal piccolo gruppo redazionale su determinati temi. Ecco, quindi per adesso sono usciti 6 volumi, Risorgimento senza eroi, che ha uno scritto preziosissimo, molto bello, di Carlo Azeglio Ciampi, che ringrazio tantissimo, non ha potuto essere presente, ma è rappresentato qui da una sua strettissima collaboratrice, la dottoressa Pandolfi, che è stata preziosa poi per i rapporti col Presidente in tutte le fasi della stesura, eccetera, eccetera. La libertà in Italia, che aveva di suo una prefazione di Luigi Einaudi e da una postfazione di Nadia Urbinati, che insegna alla Columbia University, Io credo di Prezzolini, che ha una postfazione secondo me bellissima di Emilio Gentile, che è qui presente, e La libertà in Italia di Sturzo, che ha una postfazione mia. Sono usciti ancora altri, questi i due ultimissimi volumi, collaborazionismo di Formentini, che ha un valore per noi simbolico, è stato il primo volume pubblicato da Gobetti e quindi l'abbiamo voluto far uscire non come primo, ma tra i primi. E poi c'è la prima edizione, la prima traduzione italiana. Gobetti è molto sensibile alle letterature internazionali e diffonde circa un 30% dei libri di Gobetti hanno carattere letterario. Per esempio ci sono opere di teatro che gli esperti mi dicono di grandissimo valore. Gobetti è critico teatrale, ma anche abile nella scelta, per esempio, dei volumi di teatro e delle opere letterarie. Traduce, è la prima traduzione di quest'opera di Goethe, è presentata da una studiosa dell'argomento, Chiara Sandrin. Mi permetto di raccontare un episodio che mi è successo stamane. Stamane sono stato ricevuto dal presidente Ciampi, perché l'ho voluto ringraziare di questa sua collaborazione. E così gli ho portato questo volume appena uscito, scegliendolo col dottor Stein, e il presidente Ciampi mi ha detto che andando in Germania negli anni universitari comperò tutta l'opera omnia di Goethe, di cui è molto appassionato, in occasione nell'edizione del Jubileum Goetheanum, e la leggeva da militare, credo, se ho ben capito, rompendo le scatole ai compagni di camerata, perché di notte leggeva questi libri di Goethe in tedesco. Quindi è un volume che ha una importanza, è la prima edizione di quest'opera apparsa nel nostro paese. Devo dire, questa iniziativa ha suscitato un certo entusiasmo tra i posfattori a cui mi sono rivolto, perché contrariamente alla mia tese, pensavo questi lavorano a gratis o quasi a gratis, questi consegneranno chissà quando, e invece mi sta succedendo un piccolo guaio: consegnano normalmente in anticipo i loro lavori, e quindi questo è per noi importante. Tra i volumi che usciranno abbiamo già una programmazione che copre tutto il prossimo anno, quando usciranno tutto quest'anno, quando usciranno 10 volumi, due ogni bimestre, e quindi i primi due sono usciti. Uscirà poi Papa Fava, da Caporetto a Vittorio Veneto ad aprile, e usciranno Le lotte del lavoro di Einaudi, non li dico tutti, La tragedia d'Europa di Nitti. Uscirà Ruffini, Diritti di libertà, un'opera di straordinario rilievo, e poi uscirà tra gli altri volumi Le lotte del lavoro di Einaudi, oltre alla filosofia politica di Vittorio Alfieri. Ecco, quindi quindi ci sono questi titoli di assoluto rilievo del catalogo gobettiano, di cui già sono stati, che sono praticamente pronti e consegnati tutti alla casa editrice. Desidero qui ringraziare naturalmente moltissimo alcune persone, direi due uomini e poi due donne. Allora, tra gli uomini desiderei ringraziare Sebastiano Bisson, che è così amministratore delegato della casa editrice, che in qualche modo... No, pardon, il dottor Ludovico Stein, che è amministratore delegato della casa editrice, e quindi scusi, ormai la emozione mi gioca dei pessimi scherzi, ha scelto insomma con noi di operare questa pubblicazione, insomma ci ha scelti, ci siamo sentiti scelti da lui, e poi Sebastiano Bisson, che sta curando la redazione in modo molto attento di questi volumi, e noi lo ringraziamo. Più un redattore è attento, direi più un redattore è cattivo, e più naturalmente noi siamo contenti. E poi direi da ultime due donne, lo lasciate per ultime perché sono le più, assolutamente le più importanti. Gabriela Cavaglià, che è la nostra il nostro segretario tesoriere, che tiene i rapporti col comitato, con i membri del comitato, con gli autori, con la casa editrice, insomma fa un lavoro preziosissimo. E poi Valentina Saraceni, che è il nostro referente più diretto all'interno della casa editrice per tutta una serie di problemi importantissimi ai fine della pubblicazione. Ecco, quindi ringrazio molto queste persone. Grazie. Allora, io ringrazio Gariglio, il professor Gariglio, che ha raccontato questa avventura moderna di riproporre i volumi pubblicati da Gobetti. Gobetti, Gariglio ha evocato l'attività di talent scout di Gobetti e il valore etico-civile che ha la riproposizione di quei testi. Riproposizione che è opera poi anche di una comunità intellettuale che si è formata poi intorno a questa iniziativa. Ora la parola è a Goffredo Fofi, che credo darà un taglio diverso, una prospettiva diversa al suo intervento. Sì, c'è questo. È verde. Sì, io sono qui più come veterano del Centro Gobetti che non come studioso di Piero Gobetti. Veterano del Centro Gobetti cosa vuol dire? Sono arrivato a Torino nei primissimi anni 60 dopo un'esperienza in Sicilia con Dolci e la scuola di servizio sociale di Angela Zucconi, grande personaggio su cui il nostro amico Erbani sta scrivendo una biografia, un saggio. Torino mi ha attratto per molti motivi, perché Torino era la resistenza, prima di tutto era quello, e poi era anche la classe operaia, questi due miti sui quali ero cresciuto, e quindi il bisogno di confrontarsi con questi miti mi ha depositato a Torino, dove sono stato quasi immediatamente preso in carico dalla famiglia Gobetti, sulla base di raccomandazioni evidenti, soprattutto di Bobbio e di Gigliola e Franco Venturi, perché li conoscevo da prima. Gigliola trovava soldi in giro per l'Italia per le attività di Dolci, Bobbio l'avevo conosciuto nel 56 al processo di Dolci a Palermo contro quello famoso per lo sciopero a rovescia da allora. E ero un giovane stordito, stupidino e così, entusiasta, ma senza particolari qualità intellettuali. Credo che le qualità intellettuali ancora scarseggiano. Forse sono più pacato e più sereno oggi di quanto non fossi allora. Però certamente le due correnti che hanno influito di più sulla mia formazione sono state due correnti di pensiero torinesi. Da un lato la tradizione socialista. Basso stava a Roma, l'ho conosciuto abbastanza bene, ma non è lui che ha influito di più, ma la tradizione di Foa, Panzieri e Pino Ferraris, scomparso poco tempo fa, che era giovanissimo, ma era, io pensavo che fosse già molto anziano, perché aveva solo 6 o 7 anni. Caneria, non sapevo. Sì, lui è stato segretario della Federazione del PSI di Biella, poi con la scissione è entrato nel PSUP, ma era a Torino, era un personaggio abbastanza mitico, perché era il leader delle lotte dei tessili di Biella, che sono stati in quegli anni particolarmente forti. Insomma, era diciamo all'interno del sindacato, lui era un politico, non era un sindacalista, però la sua influenza reale l'ha avuta poi all'interno della storia del sindacato. L'altro filone è il filone Bobbio, ovviamente. Bobbio, che vuol dire Gobetti, Bobbio, un filone più liberale che non socialista, che però ovviamente ugualmente importante. In mezzo c'era la famiglia Gobetti e questo mito di Piero, che era un mito un mito per tutti, morto a 26 anni, editore, scrittore, editore di riviste, insomma è un personaggio eccezionale. E io di Piero quello che ho saputo, l'ho saputo perché me lo sono cercato da me o perché mi arrivava per altre strade, non certo da Ada e da Paolo Gobetti. Ho vissuto in casa loro, ero tutti i pomeriggi per 3 anni e poi ho continuato a frequentarli molto assiduamente, però per 3 anni tutti i pomeriggi ho lavorato al Centro Gobetti e al Centro Gobetti ho imparato, come si dice, le prime regole del mestiere, in qualche modo che venivano dalla tradizione di Piero, perché fare riviste e fare libri poi è diventato un po' il mio mestiere e quello che ho imparato l'ho imparato tramite Ada, Paolo e Carla Gobetti. Al Centro Gobetti, per dirla, oltre al lavoro normale di consultazione dei libri, di sistemazione dei libri, eccetera, le attività reali, vere, erano diverse, erano attività di riviste. Ada faceva il giornale dei genitori e io ho collaborato molto assiduamente perché ero maestro elementare, mi ero occupato dei bambini e sono stato subito cooptato in questa redazione. E Paolo faceva una rivista, Paolo faceva il critico cinematografico, si era in qualche modo rifiutato al mito Gobetti perché non ha mai conosciuto il padre, è nato mentre il padre era in esilio in Francia e non l'ha mai visto e ha avuto sempre, come dire, il peso di questa figura, ha cercato di sfuggire a questo peso fino agli ultimi anni e quegli ultimi anni hanno dato un lavoro che credo, spero che il Centro Gobetti prima o poi ritiri fuori e in qualche modo anche commercializzi, magari lavorandoci sopra con un'operazione di rifinitura di montaggio, perché Paolo negli ultimi anni raccolse tutte le testimonianze possibili su suo padre in chiave cinematografica, cioè intervistando tutti quelli che avevano avuto dei rapporti con il padre. Forse la testimonianza più bella era quella della sua vecchia tata, che era anche la cameriera di casa Gobetti, che ha partecipato alle vicende, era ancora viva alla fine degli anni, intorno al 60 in quegli anni, e ha partecipato a tutte le vicende di casa Gobetti da dentro, insomma. Però dentro questo film ci sono tutti, c'è Tommaso Fiore, c'è Bobbio, c'è ovviamente tutti quelli che passavano dal centro, e ci passava tanta gente, compreso Saragat, compreso Pertini, insomma, e sono stati intervistati da Paolo per l'archivio della Resistenza, in realtà poi per farci questo grande montaggio, quando finalmente si è riconciliato con il padre, questo grande lavoro di sistemazione di questo materiale. Forse potrebbe essere un DVD, adesso vanno anche di moda, non costa neanche poi molto farlo, potrebbero essere un complemento al lavoro della ripubblicazione delle opere. Quello che io ho schedato e ho sistemato in buona parte la biblioteca insieme ad altri volontari, amici, tra cui Nini Agosti, moglie di Giorgio Agosti, Gianna Iona, altre persone che a Torino ruotavano intorno al centro. E ricordo il mio stupore, io non so il greco ovviamente, quando dovendo continuamente incollare gli ex libris di Gobetti sui libri di tutta la biblioteca, le nuove acquisizioni e tutto, questa frase, no, e quando finalmente mi dissero che cosa significava, io restai piuttosto sconcertato e anche un po' irritato. Che cosa che ho a che fare io con gli schiavi? Io allora pensavo con gli schiavi ho tutto a che fare, perché gli schiavi sono i servi, sono gli umili, sono gli oppressi, sono, no, gli schiavi per l'appunto. E fu Ada, in un modo anche piuttosto virulento, perché aveva delle maniere anche molto spicce con me, insomma, non dire sciocchezze, questo vuol dire servi, nel senso servi morali, ho a che fare io con i servi. Ecco, il significato della citazione da Socrate e Platone, questo era. E questa cosa per me, come dire, mi colpì moltissimo. L'impressione maggiore che Ecco, dicevo delle riviste, c'era anche la rivista di Carla. Carla faceva il bollettino, i quaderni del Centro Gobetti, dove venivano pubblicate per esempio tutte le più o meno ciclostilate fatte in copisteria, le conferenze, le notizie che riguardavano il centro, ma anche le conferenze. E poi in qualche modo era anche la redazione di Nuova Resistenza, che era una specie di bollettino inventato da Giorgio Agosti, al quale anche ho collaborato, sia come correggendo bozze, aiutando Agosti a sistemarlo graficamente, insomma, quel tanto di lavoro, no? E ovviamente imparando un sacco di cose, per me importanti, perché poi il lavoro che ho fatto nel resto della vita è stato sostanzialmente quello di fare riviste. Di fare riviste, legando alle riviste anche una piccola attività editoriale, perché Linea d'Ombra aveva una collana di libri di cui sono anche orgoglioso, perché per esempio per quella collana di libri Bobbio ha scritto su mia commissione L'elogio dell'amitezza, che è notoriamente, credo, uno dei suoi testi migliori. Abbiamo pubblicato Carmelo Bene, abbiamo pubblicato Salvemini, abbiamo pubblicato, insomma, abbiamo i nostri maestri, i maggiori, come diceva Bobbio, insomma, i nostri maggiori. E lo stesso è successo poi in seguito con una piccola collana per EO che si chiama Piccola Biblioteca Morale, adesso con le edizioni dell'Asino. Insomma, a me la cosa che mi affascinava del modello Gobetti era la capacità di fare i libri e di fare le riviste. Cioè, vedevo queste due cose, come tu giustamente l'hai citato prima, una frase di... Le riviste sono fondamentali per far circolare le idee, le riviste sono dei crocevia dove possono passare influenze diverse, storie diverse, dove si incontrano anche le scienze diverse, le età diverse, no? Negli anni 80, che non sono stati anni particolarmente brillanti per la società italiana, anche se di grande rivolgimento, non so, su Linea d'Ombra scrivevano i grandi vecchi, Pratolini, Bilenchi, Lamorante, Laortese, Bobbio, eccetera, Foa e così via, e scrivevano gli ultimi arrivati. Insomma, era un incontro di generazioni, un incontro di storie diverse tra di loro, perché era un'epoca nonostante tutto vivacissima dal punto di vista internazionale, perché nasceva una nuova letteratura, la letteratura per esempio del terzo mondo, esplosa, del cosiddetto terzo mondo, esplosa in quegli anni, gli africani, gli arabi, gli indiani, e poi la letteratura già interetnica, mista, meticcia, insomma la possibilità di legare tra di loro fenomeni e storie diverse, purché all'interno di una stessa ottica, di uno stesso principio. Io credo che la base del lavoro di Gobetti sia stata proprio una sorta di volontarismo etico. Io questa frase, questa definizione di volontarismo etico l'ho mutuata da Malatesta, che poi era un grande anarchico, un altro tipo di figura da non dimenticare nella storia della società italiana. Però ecco, cosa vuol dire volontarismo etico? Era una forza morale che guida le scelte politiche. Quello che in fondo stava a cuore, credo, per quello che hanno capito, a Gobetti era la formazione di una sorta di nuova classe dirigente o di cunei di una nuova classe dirigente dentro il contesto italiano, che potessero, come dire, portare una novità, fungere da elementi critici, da proposta, insomma la parte viva, e in qualche modo accettando una regola sostanzialmente minoritaria. Io credo che l'altra grande forza di Gobetti era che non si è mai preoccupato di vincere, no? di dare alle sue iniziative chissà quale grande successo e quale grande spazio. In fondo era un lavoro di pochi che si rivolgeva a pochi. Se riguardate le riviste, è impressionante vedere alla fine gli elenchi dei sottoscrittori, no? Quelli che facevano gli abbonamenti sostenitori, che sono persone, i più sconosciuti, ma ragionier tal dei tali di Abbiategrasso, l'insegnante tal dei tali di Palermo, insomma era una rete di persone per bene, diciamo, che si riconoscevano in quel sistema di valori, si riconosceva in quel progetto politico, in quel progetto culturale, e che credo sono stati e continuano a essere un po' l'ossatura sana di questo paese, senza la quale questo paese sarebbe andato a catafascio da decenni, insomma. Diciamo che il peso cangiante a seconda delle epoche delle minoranze sulla società italiana è un peso di cui bisogna così avere chiara coscienza, e in questo Gobetti forse aveva più cose da dire che non Gramsci, che non l'altra parte, che invece aveva, come dire, delle mire di successo che non appartenevano a questa piccola area gobettiana. Gobetti in fondo voleva fare il rompiscatole, il provocatore, non so, è anche paradossale che pubblicasse con questa libertà degli scrittori che gli erano invisi. Il rapporto Gobetti-Malaparte è tra i più strani che ci siano, non si possono pensare due personaggi così diversi come atteggiamenti umani, come no, uno spavaldo e aggressivo, l'altro solido, preciso, ma assolutamente non esibizionista, fuori da ogni logica spettacolare, diciamo così. Però se riconosceva in Malaparte un ruolo, una funzione, una in qualche modo una rappresentatività forte in una certa, in un certo ambito sociale, bisognava tenerne conto, allo stesso modo in cui teneva conto, che ne so, di altre figure emergenti. Non si ricorda mai quello strano personaggio che era Gangale, che, di cui spero che prima o poi l'avete già programmato. Ah, bene, perché Gangale era un meridionale protestante che ha scritto con Revival la prima storia del protestantesimo italiano, che è un libro delizioso, informato, serio, lo ristampò Sellerio con una prefazione di Cavaglion, che è un altro che andrà usato, credo, all'interno di questa, no, di queste riproposte. E perché anche lì c'era questa attenzione, no, per i protestanti erano un aspetto secondario certamente della società italiana e anche della società piemontese, però ancora negli anni in cui io ho vissuto a Torino le forze che erano le più vive di quella società erano gli ex Giustizia e Libertà, i valdesi, gli ebrei e una parte della sinistra, della sinistra ufficiale, socialisti e comunisti, una parte, quella credo più fortemente legata al sindacato e alla Fiat, alle lotte operaie in qualche modo, non quella più ufficiale, insomma. Delle minoranze che però avevano un peso e che ovviamente nella storia della città e nella storia italiana hanno avuto un peso e continuano ad averlo, credo, ancora oggi. Cos'altro volevo dire? Quindi la forza, il modello, diciamo, che oggi ancora credo sia più convincente del lavoro di Gobetti è quella che oggi chiamiamo rete, no? In fondo è dalla rete alla rete, da una rete di un certo tipo, una rete fatta all'ufficio postale, spedendo, no, ancora negli anni 60 se ne andavano via ore e ore per spedire i bollettini, fare le firme a mano, su tutte, scrivere le buste dove infilare le riviste, cioè, insomma, tutta quella parte di lavoro manuale, no, che però serviva a costruire, non lo so, insomma, finiva il giornale dei genitori, sapevamo quando ci si riuniva prima per scrivere a mano le buste, poi per attaccare con la colla delle cose che avevamo stampato, degli indirizzi che avevamo stampato e che tagliavamo ogni volta con le forbici, era un contatto diretto con i nostri lettori, con i lettori di Ada, con i lettori di Paolo. Era un contatto diretto perché sapevamo, dopo un po', quello ha scritto la moglie che è morto, bisogna disdire l'abbonamento, l'altro no, ha cambiato casa e è passato da Palermo a Milano, l'altro eccetera. Diventava veramente una rete che era dei legami molto più intensi e più forti che non quelli ovviamente della situazione attuale, in cui spesso non sappiamo chi sono i nostri lettori, no? Lo sappiamo ogni tanto andando in giro e facendo dei dibattiti eccetera, c'è sempre qualcuno che si fa vivo e che dice io sono abbonato eccetera eccetera, però allora era un legame particolarmente forte. Questo legame è un legame che è servito ad attraversare gli anni del fascismo a una parte minoritaria certamente, ma molto consistente, molto solida della società italiana e dell'intelligenza italiana di quegli anni. Io credo che da questo punto di vista siamo ancora lì, siamo ancora a quel punto, e questi esempi, questi modelli continuano ad avere un fascino e una necessità, insomma, ci servono. Ecco. Un'ultima cosa su Ada. Ada non parlava mai di Piero, non era uno dei suoi argomenti di conversazione abituale, salvo qualche volta, e io di nascosto cercavo di ascoltare, con Bianca Guidetti Serra, perché c'era un legame talmente forte tra loro e ogni tanto si lanciavano in confidenze, io ero in un angolo che facevo le mie cose e potevo ascoltare. Certamente per Ada Piero è stato il faro della sua vita, però io credo che il ruolo che ha avuto Ada nel lavoro di Piero non è solo quello della donna fedele che lo assiste e lo sprona e lo aiuta, ma è quello di una collaboratrice straordinaria, perché senza Ada probabilmente Piero tutti questi lavori non erano tutti e due volontarismo etico di tipo alfieriano addirittura. Studiano in russo, cosa fanno? Traducono Andreev e pubblicano Andreev, cioè c'è immediatamente una, no? La loro attività di formazione diventa subito qualcosa da comunicare agli altri, un libro da fare, anche se Andreev sì, allora era piuttosto noto, ma non tanto, a parte certe cose. Un'ultimissima cosa, a me insomma, l'attività di editore di Piero ha trovato in questo librino che stampò a suo tempo Scheiwiller la prima sistemazione, diciamo, con la scelta di testi anche molto personali, che poi non c'entrano niente con il lavoro di editore, fatta da Antonicelli. Ecco, Antonicelli è un'altra di quelle persone più o meno dimenticate, ma come editore, non editore in proprio, perché si affidava ad altri, collaborava con altri, però insomma Antonicelli è stato la Frassinelli per la quale Ada ha tradotto molti libri, tanti libri, la Frassinelli che ha pubblicato per prima in Italia Kafka e Faulkner, forse i due maggiori scrittori del Novecento, ma forse adesso per me sì, non so se tutti condividono quest'idea, ma insomma sono due. Antonicelli nel dopoguerra ha fondato e ha fatto la De Silva Editore, che ha pubblicato il libro rifiutato da Einaudi, Se questo è un uomo, di Primo Levi, che ha pubblicato il primo libro di Danilo Dolci, che ha pubblicato Le memorie di Victor Serre, che ha pubblicato fior di libri in quegli anni, sempre in un'ottica minoritaria, perché non era neanche l'Einaudi, lui aveva ottimi rapporti con l'Einaudi, però la piccola casa editrice rimediava anche ai guasti dell'Einaudi, come nel caso di Se questo è un uomo, no? Perché Einaudi lo rifiutò e lo fece di corsa Antonicelli. Insomma, c'è una tradizione di editoria, che è un'editoria, ripeto, minoritaria, non è tanto Einaudi o Garzanti o Mondadori o Feltrinelli, ma è la piccola editoria che ancora oggi ha, anche se non lo sa, alle spalle questa eredità molto consistente e questi modelli molto alti. Grazie. Allora, grazie a Goffredo Fofi, che ha appunto richiamato i fili di questo percorso intellettuale cominciato con Gobetti e proseguito dopo Gobetti, Bobbio, Gigliola e Franco Venturi fino ad Antonicelli, una, appunto, un'idea di comunità che si ripropone, dalla quale si eredita qualcosa, si prende qualcosa, c'è un testimone che passa da un gruppo ad un altro. Forse sono le riviste che un po' mancano ora, cioè non hanno lo stesso rilievo che avevano allora. Ecco, a questo punto io do la parola all'ultimo dei relatori, cioè il professor Emilio Gentile. E quarto fui tra cotanto senno, sperando di averne altrettanto o almeno un po'. Io sono stato personalmente contento della proposta che è stata fatta, non so da chi, di affidarmi la postfazione, orribile parola, ma per cosa spero non orribile, a questo volume, io credo, di cui ancora oggi risulta, come dice il signor Lino Maneri, signore è appellativo più bello che dottore o professore, quello non so, quindi, pur essendo, da quello che ho capito, un ottimo conoscitore di Prezzolini, non ha mai incontrato questo libro di Prezzolini, che fu voluto da Gobetti, sollecitato da Gobetti, desiderato da Gobetti e stampato da Gobetti. È un libro pressoché sconosciuto, tant'è vero che mi si dice che anche chi ha parlato oggi su Repubblica di questa iniziativa non menziona il libro di, io credo, di Giuseppe Prezzolini, che pure risulta essere stato il secondo o il terzo libro pubblicato da Gobetti quando era ancora associato con il tipografo Arnaldo Pittavino. Infatti i libri pubblicati con Pittavino sono soltanto tre e uno di questi tre è, io credo, Giuseppe Prezzolini. Opera tanto rara che neanche la casa editrice è riuscita a trovare una copertina integra del volume e ne ha usato una usata. Quando ho iniziato a occuparmi di questa postfazione mi sono un po' incuriosito per sapere cosa era in circolazione di questo libro. Ebbene, risultava che era stato appena acquistato da una libreria antiquaria a 150 euro. Ho trovato un'altra offerta a oltre 180 euro. Dunque, va reso grazie alla casa editrice e al Centro Studi Gobetti di aver messo economicamente a disposizione dei curiosi, non so se degli studiosi o dei cultori, io credo, un libro pressoché sconosciuto anche da chi oggi parla delle nuove edizioni Gobetti. La ragione per la quale sono stato contento è perché... voglio fare adesso rievocazioni personali minimissime rispetto a quelle che ha fatto lei, ma il nome di Gobetti è stato sempre associato per me al nome di Prezzolini e quando ho conosciuto Prezzolini nel 1965 e ne divenni amico, ricordo che la prima cosa che mi disse quando mi chiese ma lei Gentile quanti anni ha? Io disse ne ho 18, mi guardo e disse l'età di Piero. Io avevo sentito parlare di Piero Gobetti, ma avendo studiato letteratura in quel periodo di terzo liceo, pensavo che fosse Piero Jaillier. E disse Piero Jaillier, professore? Disse no, Piero Gobetti. E notai che a nominare Gobetti gli si inumidirono gli occhi e la voce divenne che era molto forte, divenne molto dolce. Io che avevo sentito questo nome di Piero Gobetti da un mio professore di liceo, che mi era dato da leggere la storia del liberalismo di De Ruggiero, ma non trovavo il nome di Gobetti, gli chiesi, ma lei lo ha conosciuto? Opperbacco, mi disse, io ho conosciuto Gobetti alla sua età, non io, lui, Gobetti aveva 18 anni. E mi cominciò a parlare di Gobetti, con gli occhi umidi. Mi sono incuriosito e da allora sono diventato non solo amico Prezzolini, ma diventai intellettualmente amico di Gobetti. Uno dei primissimi articoli scritti su una rivista oggi scomparsa, credo negli 66-67, insomma nel fine degli anni 60, si intitolava L'eretico Piero Gobetti. La mia prima recensione, credo, su una rivista di storia è la recensione alla nuova edizione curata da Spriano degli scritti di Piero Gobetti. E poi presi il vezzo di usare nei miei libri o nei miei quaderni di appunti due motti. Allora conoscevo il greco abbastanza, adesso l'ho dimenticato completamente, ma credo che la frase fosse «Timoisin duloisin», che ho a che fare io con gli schiavi. E io la usavo in greco insieme a «Mihi libertas neces est», che credo fosse il motto del Capitano Nemo del Giulio Verne. Io mi identificai, o meglio, mi piaceva identificarmi con questi due ideali di indipendenza, di autonomia, di amore per la libertà, che poi avrei trovato negli scritti di Gobetti quando, cominciando a studiare all'università, cominciai ad appassionarmi. Vedo che era uscita allora da poco la nuova edizione della Rivoluzione Liberale di Einaudi, e poi mano a mano ho letto tutte le sue opere. E nonostante il dissenso che è cresciuto con la conoscenza storiografica da molte delle tesi storiografiche di Gobetti, non riesco a pensare a lui, associato a Prezzolini, come due amici ai quali in qualche modo, pur essendo così profondamente diversi tutti e due, mi sentivo legato, per cui ho accettato volentieri questo compito e credo di aver anche chiesto se c'era un compenso, ma di non averlo mai sollecitato, per la semplice ragione che mi sono fatto un principio che bisogna sempre chiedere un compenso quando ci si chiede un contributo intellettuale, perché io mi sento umiliato dal mio idraulico, dal mio quello che aggiusta le serrate ogni volta che viene, sono 30 per l'andata, 30 per il ritorno, 100 per il servizio. Dico, mi fa la fattura, allora sono 300. Dico, va bene, allora è possibile che quando ci chiama la radio, ci chiama la televisione, non faccio nemmeno il gesto, poi uno nobilmente dice, no, per carità, lo faccio per la cultura. E questa ragione personale, ecco, finisce qui la mia modestissima biografia, mia autobiografia nei ricordi di questi due personaggi, mi ha però portato poi a cercare anche di capire perché il problema del rapporto Gobetti-Prezzolini, ma non voglio parlarvi di questo, poi vi parlo di Gobetti, è stato comunque centrale sia nella formazione di Gobetti, sia nell'esperienza di Prezzolini, sia anche poi nella rottura profondissima che c'è stata fra un certo modo di guardare a Gobetti come un mito positivo e un certo modo di guardare a Prezzolini come un mito totalmente negativo. Ed erano delle cose che appartenevano, ahimè, purtroppo ad una drammaticissima lotta politica nella quale i due si trovarono ad avere atteggiamenti molto diversi. Resta il fatto però, questo dimostra la nobiltà di entrambi, che nonostante la profonda divergenza che arrivò proprio fino all'insulto, Prezzolini viene definito da Gobetti un disertore, Prezzolini interpreta traditore, e nonostante questo rimase il rispetto e l'amicizia personale, tant'è vero che quando Gobetti decise di andare a Parigi nel 1926, e per fare l'editore scrisse a Prezzolini, che già era a Parigi, e scrisse solo a lui pregandolo di non comunicarlo a nessuno degli amici. Quindi si fidava di un nemico ideologico che però aveva conosciuto innanzitutto come un maestro di organizzazione culturale. E questo è il primo aspetto importante. Quando lei accennava al fatto che le riviste e i libri, beh, questo è un fatto importante perché il modello di una rivista che diventa casa editrice senza nessun interesse commerciale, ma soltanto per fini pedagogici, di educazione, di diffusione, nasce con la voce di Prezzolini. La edizione, i quaderni della voce sono il modello al quale il giovane Gobetti si ispira, così come si ispira, almeno per Energie Nove, alla voce di Prezzolini e all'unità di Gaetano Salvemini. Quindi Prezzolini e Salvemini sono i due nomi attraverso i quali Gobetti cerca di interpretare quello che è il ruolo dell'intellettuale in una società profondamente lacerata da conflitti politici. Ovviamente quando si pensa anche al profondo dissidio tra Gobetti e Prezzolini bisogna pensare che uno aveva 20 anni e uno ne aveva 40. Uno aveva vissuto l'esperienza della cultura militante contro Giolitti, l'altra la vive contro il fascismo e Mussolini, che per quanto anche Gobetti qualche volta abbia visto in Mussolini un Giolitti redivivo, poi però si è subito pentito di questi accostamenti, erano due personalità totalmente diverse e il mondo nel quale si doveva combattere contro questi uomini, il dittatore parlamentare Giolitti e il dittatore totalitario Mussolini, fin dall'inizio, su questo poi torneremo proprio per i meriti della casa editrice Gobetti, era evidente. Quindi c'erano 40, 20 anni di differenza, c'era l'esperienza della guerra, c'era l'esperienza di Prezzolini, che scrive non il libro, io credo che il libro gli nasce per sollecitazione di Gobetti, il titolo credo che lo abbia anche accettato Gobetti o forse suggerito, ma di un Prezzolini che non esisteva più nel momento in cui pubblica questo libro. È un Prezzolini del 1910-14, è un Prezzolini convinto tra il 1910 e il 1914 che l'idealismo filosofico da Kant fino a Croce e Gentile abbia costituito un'enorme emancipazione dell'uomo dalla superstizione di qualsiasi religione metafisica, che attraverso Croce e Gentile soprattutto si era compiuto quel processo di immanentizzazione. La parola è brutta, ma la usa anche Gobetti, e senza questa parola non capiremmo Gobetti, il suo storicismo, il suo militantismo, il suo volontarismo eroico ed etico, concetti di eroismo sono uguali a concetti di etica, che è presente proprio in questo libro. E Gobetti che sollecita una pubblicazione di scritti che probabilmente il Prezzolini, passato attraverso l'esperienza della guerra e l'esperienza del dopoguerra, molto prima del fascismo, assume e dichiara quell'atteggiamento di apoto, cioè di colui che non la beve, che non vuole essere più coinvolto nelle passioni politiche, molto prima del fascismo, e lo dichiara anche a Gobetti, molto prima del fascismo, perché è un uomo che è passato dalla fede totale in una filosofia che avrebbe dovuto addirittura sostituire la religione cristiana e rappresentare la religione dell'uomo moderno, passa attraverso l'esperienza della guerra che ha voluto con l'interventismo e torna da questa esperienza totalmente privo di illusioni. Rimane ancora un certo suo internazionalismo umanistico intorno al 1920, quando si associa al gruppo di Clarté, di Arriva Bius, eccetera, però è già più uno sforzo volontaristico che fa Prezzolini di continuare a credere nella religione dell'uomo che non un'intima convinzione, e quindi da lì quello scetticismo radicale che poi gli è durato fino alla morte. Gobetti lo nota tutto questo anche nei ritratti che dedica a Prezzolini nel 19, è costante la sua attenzione nei confronti di Prezzolini nel 19, nel 20, e i primi ritratti prima della rottura dovuta all'atteggiamento di fronte al fascismo. Noi abbiamo attraverso l'interpretazione di Gobetti un'immagine di Prezzolini come un'anima religiosa. Gobetti credeva che in Prezzolini si fosse compiuto quel processo attraverso il quale una filosofia idealistica, quella di Croce e quella di Gentile, che però con Croce e Gentile era rimasta chiusa nei loro cervelli o si era diffusa soltanto nell'accademia e nella cultura, dovesse diventare costume, modo di vivere. Nel 1910, quando Prezzolini aspetta il suo primo figlio, inizia un dibattito con Giovanni Gentile, perché rimprovera a Gentile la sua pedagogia che pretende, pur non credendo più nella religione, di assegnare alla religione cattolica tradizionale un ruolo pedagogico mitologico dell'infanzia. E Prezzolini dice: ma scusi Gentile, ma è falso questo, è ipocrita. Cioè, se noi siamo convinti che la religione cristiana, cattolica, qualsiasi religione, appartiene a un'epoca ormai superata della coscienza collettiva, della coscienza umana, perché dobbiamo insegnare la menzogna? E Gentile, che è lì, che è un po' come i sofismi gentiliani, che non sono emiliani naturalmente, gentiliani, cerca di giustificare una posizione per Prezzolini insostenibile. Ed è la stessa posizione che noi ritroviamo in Piero Gobetti. In Gobetti c'è un immanentismo assoluto, uno storicismo assoluto, una convinzione che tutto ciò che riguarda l'essere umano moderno consista nella sua capacità di essere padrone del proprio destino senza più dipendere da nessuna verità trascendente. Questo è il suo eroismo, di fronte però ad una massa che continua invece a credere. Questo volontarismo etico, questo volontarismo eroico in Gobetti è anche un volontarismo molto aristocratico, di un'aristocrazia della coscienza, del rigore, dell'intransigenza, ma è quello che gli fa saltare sempre le minoranze eroiche, le minoranze intransigenti, addirittura questo concetto di intransigenza che lui vedeva nel Prezzolini, che da idealista militante voleva scristianizzare l'Italia molto più radicalmente di quanto non volesse fare cialtronescamente il futurismo. Vede ciò che rappresenta la capacità di essere coerenti fino in fondo con le proprie convinzioni. E questo valore per Gobetti è talmente fondamentale che lui lo cerca anche nei fascisti, ecco perché lui apprezza Malaparte, non solo perché è un grande scrittore, lui sa apprezzare i grandi scrittori, ma perché in quel periodo è colui il quale vuole un fascismo integralista, intransigenza e totalitario. C'è un articolo di Gobetti che farebbe raccapricciare oggi i gobettiani moralistici un po' troppo alla maniera, no? L'elogio della ghigliottina. Cioè Gobetti odia del fascismo tutto ciò che è compromesso, che è trasformismo, che è illusione, che è mussolinismo, mentre apprezza quelli che vogliono fare i tiranni, perché scontrandosi con i tiranni si scopre il valore della libertà. Laddove invece il tiranno cerca di addolcirti la dittatura, lì c'è la corruzione. E Gobetti fa l'elogio della ghigliottina. Ci si stupisce perché è una frase che circola poco, quando si parla del fascismo e della violenza. Bene, Gobetti non si faceva scrupolo a dire: ma ci vogliamo meravigliare noi che abbiamo letto Pareto e Marx che il fascismo usi la violenza? Cioè Gobetti non negava la funzione della violenza, ma doveva essere una violenza che avesse una sua coerenza, che fosse dalla parte del nemico o dalla parte dell'amico. Infatti Prezzolini, una nota di diario, dice: ho parlato su invito di Gobetti, sono stato a parlare agli operai con Gramsci. Gli operai non mi hanno fischiato perché per rispetto a Gramsci, poi ho conosciuto meglio Gobetti, personale intransigente, ma certo, se fosse disaccordo con me mi farebbe tagliare la testa, forse farebbe bene. Questo senso dell'intransigenza, del rigore, era qualcosa che derivava da una concezione della cultura che forse oggi è rimasta molto superficiale, oppure è diventata una moda, oppure è diventata come la virtù un'ipocrisia cosmeticamente abbellita, ma loro la sentivano in modo vitale. Ecco perché Gobetti, bellissima frase, non ha mai cercato il successo. È giusto dire Gramsci cercava il potere, Gobetti non ha mai cercato il potere, non odiava il potere, avrebbe potuto dire che il potere è per sua natura corruttore, ma lui voleva essere colui il quale elevava il potere, elevava la politica ad una coscienza superiore. E da qui questo lavoro, basta di parlare di Io Credo, basta di parlare di Prezzolini, parliamo di Piero Gobetti, il suo lavoro di editore. Beh, non era, è stata letta quella bellissima nota di appunto di Aristico, però non è che lui queste sue virtù le rilasciava soltanto nel diario, perché il 5 maggio 1919 il 18enne Gobetti, nelle Energie 9, la sua prima rivista, definisce bene cos'è la cultura degli editori, poi questo concetto di cultura. L'editore deve essere un iniziatore di cultura, un organizzatore di lavoro spirituale, deve essere tutt'altro che uno speculatore o un mercante, deve rappresentare un intero movimento di idee, deve esserne convinto, conoscerle profondamente, tanto meglio se va portato il suo contributo anche lui, tanto meglio se è lui l'iniziatore. Beh, è il ritratto di Giuseppe Prezzolini che lui riflette in se stesso e proietta in questa figura, non dell'editore ideale, il titolo può essere ingannatore, perché è l'editore reale, quello che Gobetti fa. E quello che Gobetti fa, e guardiamo, oggi purtroppo il termine sobrio ha perso sobrietà, e c'è la retorica del sobrio, questa bella parola non è più sobria, ma si fa sembra una retorica sobria insistere sulla giovinezza. Io non credo che la precocità sia un merito, non lo è neanche la longevità, però un precoce, cioè un ragazzo che a 18 anni comincia la sua attività editoriale come direttore, fondatore editore di una rivista, e la esaurisce nel 1919 e la esaurisce nel 1925, 6 anni, e in questi 6 anni lui pubblica 2 riviste, crea una casa editrice e crea accanto alla casa editrice e tramite la casa editrice quella rete che sono i gruppi di iniziativa di rivoluzione liberale. Non vuole fare solo cultura, vuole fare cultura politica. Il suo alto concetto della cultura politica è quello che forse oggi si è smarrito, non per responsabilità di qualcuno ma per le epoche che cambiano, ma l'idea che non esiste politica senza cultura, altrimenti la politica è corruzione. Può essere quella democratica di un Turati, può essere quella ma se non c'è la cultura, se non c'è la cultura, cioè la convinzione profondamente sentita e la conoscenza dei problemi e la serietà morale di accettarne la possibile soluzione a qualsiasi rischio, non c'è politica. Politica che sia politica nel senso alto del termine, come la concepiva Gobetti. Ma è una cultura politica non settaria, non unilaterale. Forse lui c'era del domenicano, forse c'era anche dell'inquisitore, ma il suo senso immanentistico, storicista e dialettico lo portava a dire: uniamo i rigorosi, i sinceri di tutte le opinioni. E un po' dalla maniera di Sorella, dalla lotta scaturirà il meglio. Ecco perché lui sceglie anche un giornalista, uno scrittore fascista in quel periodo lì, integralista, totalitario, quello che vuole l'eliminazione anche di Gobetti stesso probabilmente, lo pubblica. Ma allo stesso modo pubblica Sturzo, lui che è per la religione dell'immanenza, lui che non crede nella religione, lui che crede che ormai non parla mai di una convivenza della modernità con la religione, però pubblica Sturzo perché? Perché Sturzo è il riformista del messianismo, cioè qualcuno che sta cambiando dall'interno anche il cattolicesimo politico. E pubblicherà Giordani, parte guelfa, figuratevi, lontanissimo da Gobetti, ma Giordani è uno che di fronte a tutti i compromessi della Chiesa con il fascismo fa appello alla Chiesa perché rimanga rigorosamente cristiana e non accetti compromessi con un movimento radicalmente anticristiano. Questo era il carattere della editoria di Gobetti. E pensiamo poi che la casa editrice in realtà comincia come Pittarino, poi diventa Edizione Rivoluzione Liberale, poi diventa Piero Gobetti Editore, ma dura due anni. Comincia nel 22 insieme a Rivoluzione Liberale, poi il 23 escono con Pittavino, poi Pittavino censura un articolo più moderato e lascia perdere, e Gobetti va alla ricerca di un editore. E alla fine avrebbe voluto anche comprarsi una tipografia, quella, se avesse avuto i soldi, non ce li aveva, non li va a cercare però pur di avere successo. E forse gliel'avrebbero dati, un giovane così brillante, così d'ingegno, già noto a 19 anni, almeno in tutti i circoli degli vociani e degli unitari, li avrebbe trovati sicuramente, ma non era questo il suo obiettivo perché sapeva che altrimenti avrebbe perso la sua libertà e il rigore della sua concezione dell'editore. Dopodiché lui inizia le edizioni di Piero Gobetti, sono 23-25, pubblica 89 volumi mi pare. Gli altri sono pubblicati, come dice? Non sono tutti 114. 114 arrivando dopo il 26 fino al 29, quando viene continuata. Ma i libri del, certo, quando del, continua Baretti. Baretti, che continua la casa editrice. Però Vivo Gobetti si pubblicano 15 volumi nel 1923, 27 nel 1924, 47 nel 1925, in tutto 89 volumi, se la matematica, per me è stata sempre un'opinione, però grazie. Innanzitutto le cifre, 15, 27, 47, dimostra il successo che ha un piccolo editore, un artigiano, non provinciale però, un artigiano dell'editoria, l'abbiamo visto in quella descrizione, l'editore deve essere tutto, commerciante, divorzio, ecco, lui avrebbe voluto essere tutto questo probabilmente e di fatto lo faceva con la collaborazione della moglie. Ma sono una crescita continua e anche nelle tirature. Rivoluzione Liberale oscilla fra le 1000 e le 2000 copie, raggiunge soltanto con gli arresti di Gobetti nel 23 e poi nel 25, mi pare, adesso ricordo bene la data, raggiunge 10.000 copie. Ma un libro pubblicato da Gobetti, l'opera di Nitti, vende 10.000 copie. Salvatorelli, Nazionalfascismo, fa 3.000 copie. Normalmente i libri di Gobetti oscillavano fra le 500 e le 1.000 copie, che non erano poche per un editore povero. Lui si definiva, siamo poveri amministratori dell'ideale, ecco la sua definizione, siamo poveri amministratori dell'ideale. Non solo, ma guardiamo poi a come si svolge questa casa editrice. È vero che ci sarà poi della letteratura, è vero che ci saranno anche scoperte di poeti, ma sono più tardi, sono già del 25. Noi tra il 23 e il 24 abbiamo invece una casa editrice che è fondamentalmente politica. Le edizioni sono principalmente dedicate alla lotta politica, non nel modo settario in cui uno poi crede che debba essere, perché il settarismo di Gobetti è di un livello superiore a quello della fazione proprio perché non cerca il potere, ma vuole la sincerità, vuole il rigore, vuole la verità, vuole lo scontro diretto anche a costo di arrivare all'elogio della ghigliottina. Ma i libri che pubblica sono fra le migliori interpretazioni della lotta politica in quel periodo. Io mi batto da anni perché venga restituita la categoria del totalitarismo, il suo significato originario, perché è un concetto chiave per capire il fascismo e il Novecento. Ma pochi mi riconoscono il merito di aver riscoperto, e non me lo sono attribuito, il merito di aver insistito sulla novità del fenomeno fascista, utilizzando in alcuni casi il termine totalitarismo proprio agli scrittori di Rivoluzione Liberale o ai collaboratori di Rivoluzione Liberale. E in tutta la storiografia sul fascismo tutto questo bagaglio, anche l'antifascismo militante, l'ha completamente ignorato e dimenticato. E invece è ricchissima di intuizioni. Perché? Perché, ed è questo l'altro aspetto della casa editrice Gobetti, perché Gobetti non voleva la polemica spicciola. Voleva, come lui dice, queste opere che a volte sono anche discutibilissime per questa pretesa di sinteticità illuminante, no? Quello che io rimprovero a molti cultori di Gobetti come fonte storiografica è che le sue formule sono brillanti, ma come da giornalista, non l'ho mai scritto questo, sono brillanti intuizioni, ma molto spesso sono ingannevoli. Fascismo, autobiografia della nazione, è bellissima, non significa niente storicamente, ma Gobetti aveva l'esigenza di introdurre nella lotta politica quello che poi gli aveva proposto Prezzolini, ma in un modo che Gobetti non aveva accettato, questa capacità dello sguardo storico. Se guardate i suoi libri, i libri che lui pubblica, ma anche i suoi stessi libri, sono solo queste grandi panoramiche in cui si cerca di abbracciare un fenomeno storico nella sua essenza, e generalmente è un fenomeno storico che poi viene sempre rappresentato in una sorta di tragedia, cioè sono i buoni e i cattivi, anche se lui poi i buoni non li considera santi e i cattivi non li considera malvagi. È lo scontro fra due posizioni che non possono conciliarsi. Lui ha questo senso quasi estetico della lotta politica come scontro fra intransigenze. E i suoi libri hanno tutto questo carattere di sguardo generale. Il libro Sunniti sulla guerra, il collaborazionismo che abbraccia tutto il tema del problema dal socialismo alla democrazia. Lo stesso libro, io credo, di Prezzolini era in fondo questo sguardo di una nuova umanità che avrebbe dovuto seguire un altro destino, perché secondo Prezzolini, dopo la Prima Guerra Mondiale, l'unico destino per l'umanità era quello di scoprire l'internazionalismo umanistico e la religione dell'uomo moderno. E lo stesso nazionalfascismo di Salvatorelli, è vero che nasce da un assemblaggio di articoli, però così come li ha ricomposti, penso anche con l'intervento di Gobetti, sono uno sguardo sulla Europa nel momento in cui il secolo della democrazia sta per tramontare e sta per iniziare il... Allora non si pensava a un secolo, ma insomma l'era della reazione, di questa nuova reazione che si chiama fascismo. Da questo nasceva in Gobetti l'esigenza appunto di educare queste nuove minoranze. Lui sperava che queste nuove minoranze fossero il proletariato come forza attiva e gli intellettuali come lui, non legati faziosamente alla conquista del potere, che illuminavano anche il proletariato. Questa sua idea di essere più di Gramsci, più di Togliatti, di essere lui il possibile elaboratore dei nuovi miti per la nuova classe dirigente, che per lui era il movimento operaio, e così via. Ingenuità, fraintendimenti, entriamo in merito a tante questioni che poi hanno a che fare con la storiografia, ma rimane il fatto che Gobetti è talmente convinto di questo che fin dall'inizio non accetta di fare solo l'editore di una rivista politica, e neanche però l'editore di quaderni della rivista politica. Vuole essere il promotore di gruppi di azione politica nell'ambito però di una dimensione culturale. Nascono i gruppi di rivoluzione liberale, che sono ramificati in tutta Italia. Io mi ricordo quando fece la tesi di laurea, che il tema era la riforma del carattere degli italiani nelle riviste del primo Novecento, dalla voce a rivoluzione liberale. Mi era capitato, io ho iniziato con Nino Valeri, però poi lui andò in pensione e mi seguì il professor, no, non mi seguì, cioè passare il professor Ruggero Moscati, il quale mi chiese: ma lei cosa sta facendo? Beh, io sto vedendo questa, tutti questi nomi, Gramsci, chi lo conosceva Gramsci allora? Gobetti, quello sì che, Gobetti si conosceva in Italia, si conosceva in Francia. Questo ragazzo di 24 anni riesce a creare una opposizione intransigente al fascismo che diventa negli anni fra il 23 e il 25 forse il centro di cultura politica antifascista più moderno, più originale e più rigoroso nel non illudersi che ci sia la possibilità di una conciliazione, nella quale aveva creduto Amendola prima della marcia su Roma, Turati, il fascismo si sta sfasciando, lo dice nel 23, lo ripete nel 24, eppure l'intransigenza settaria ma paralizzata e inerte dei comunisti. Gobetti invece, molto prima che si scopra il volto del fascismo, comincia a dire fin dal settembre: con il fascismo non sono possibili compromessi. Allora anche Amendola pensava che si potesse costituzionalizzare il fascismo. Gobetti non ci crede, capisce l'essenza del fascismo profondamente antiliberale, antidemocratica, e non crede che da quel movimento, così come si è sviluppato e così come Rivoluzione Liberale comincia ad analizzarlo, perché i primi numeri, i primi scritti che analizzano il fascismo nel suo complesso sono numeri speciali di Rivoluzione Liberale, dove diverse voci, compresa qualche voce fascista, illustrano questo fenomeno. Quindi questa capacità o questa volontà di capire che cosa bisognava combattere prima che combatterlo istintivamente, e questo lo ha portato ad incrementare la casa editrice, specialmente quando poi, di fronte all'evidente impossibilità di continuarla a svolgere in Italia, quando gli arriva l'ingiunzione nel 25 di chiudere la casa editrice Rivoluzione Liberale, lui, e questo è interessante da approfondire forse, lui va a Parigi. Ma perché scrive a Prezzolini che non va a Parigi per mescolarsi con gli antifascisti, la De Ambris e fare il solito Garibaldi? Va per fare un'opera di editoria europea. Che cosa era maturato lui in quel periodo per indurlo non più a sentirsi un antifascista militante che all'estero avrebbe continuato la battaglia antifascista, ma non vuole addirittura mescolarsi con gli antifascisti che chiama garibaldini? E lui aveva un profondo disprezzo per i garibaldini, che erano gli antenati, i nonni dei fascisti, cioè di questo attivismo militante senza riflessione culturale. Perché probabilmente a distanza di 3 anni lui aveva forse compreso un po' meglio quello che voleva dire Prezzolini con l'apotismo, che di fronte allo scontro delle passioni in cui anche le intelligenze più belle finiscono con l'essere compromesse, se si vuol fare un lavoro più reale, come avrebbe detto anche Gramsci, per l'eternità, bisogna lavorare sulla elaborazione di una cultura intransigente e coerente. E probabilmente quello che Gobetti immaginava è che avrebbe continuato la sua battaglia contro il fascismo, ma probabilmente non con la lotta militante, ma con libri come quelli che aveva già cominciato a pubblicare in Italia, che denunciavano la vera natura del fascismo. In un periodo in cui siamo nel 1926 e dovremmo aspettare il 1933, in Europa del fascismo, che Gobetti aveva intuito in molti suoi aspetti fin dall'inizio, si pensava al massimo come di una cialtronesca dittatura per un popolo di cialtroni che non poteva trovare di meglio che un padrone per creare uno spirito da servitori. E questo era quello che Gobetti avrebbe forse voluto continuare a combattere. Vi ringrazio. Allora, grazie a Emilio Gentile. Ora io non so se abbiamo ancora un po' di tempo oppure siamo costretti. Incrocio lo sguardo di Lodovico Staidel. Possiamo per esempio dare spazio a qualche domanda dal pubblico se c'è, oppure a un brevissimo secondo giro per chi volesse approfittarne. Allora provo prima con il pubblico, vediamo se c'è qualcuno che... Ecco, c'è il signore lì. Dunque, una piccola premessa che parte però da vicino, cioè da ieri. Ieri è stata per noi una giornata speciale perché si è celebrato il 50esimo anniversario della morte di Don Giuseppe De Luca, che è il fondatore dell'edizione Storia e Letteratura. Cosa unisce, diciamo per così dire, questo progetto appunto al nome di Giuseppe De Luca? E la domanda che io feci prima di tutto a Federico Codignola, scomparso da poco a ottobre scorso, quando io ero in quel momento dalla Terza, dove aveva incrociato anche la professoressa Salvati, e quando mi chiese appunto di provare a salvare l'edizione Storia e Letteratura, che se la stavano passando male, e non riuscivo a capire che cosa mai c'entrasse la tradizione, diciamo, laica, profondamente laica della famiglia Codignola, la tradizione quindi della Nuova Italia Editrice, Ernesto e poi Tristano, Pippo Codignola, eccetera, la riforma della media inferiore, le battaglie contro Fanfani. E lui mi disse che appunto non aveva mai conosciuto Don Giuseppe De Luca, ma che aveva cominciato a seguirla quando aveva 21 anni e che trovava appunto come elemento assolutamente folgorante di unione, diciamo, con la tradizione un po' della sua famiglia, la libertà di questo prete, appunto, che nel 1943 e poi subito all'inizio del 1944, all'indomani della liberazione di Roma, sceglie di fatto un po' come primi un po' direttori editoriali del suo progetto due ebrei, Arnaldo Momigliano e Oscar Christeller, fatto non così scontato, diciamo, per un per un prete sotto Pio XII, insomma, per un prete che veniva dal sud, per un prete sostanzialmente conservatore, che poi aveva partecipato a primato, quindi alla fine diciamo che si era a un certo punto, che nei fatti aveva anche aderito al fascismo, un po' come poteva essere allora, forse probabilmente in maniera superficiale. Quindi per questo prete, comunque, appunto, questo giro di boa così importante segna un momento, appunto, in cui trova modo, diciamo, di sottolineare questa grandissima libertà, questa grandissima indipendenza che lo porta a pubblicare, è stato ricordato Sorel, Don De Luca pubblica Sorel, l'autore del sindacalismo rivoluzionario, pubblica Zolla, che non c'entra nulla con Don De Luca, va bene. E poi pubblica anche tante cose che invece c'entrano, ovviamente, Cristelmo, Emiliano e poi dopo tutta la grande tradizione, diciamo, della filologia. Però ecco la libertà. E appunto Codignola, nel momento in cui si era avvicinato a Don De Luca, aveva visto che quest'uomo poi era entrato comunque in contatto con i rodaniani, un fatto un pochino probabilmente anche a questo era stato un po' obbligato da alcune vicende, aveva poi a un certo punto cercato, diciamo, di aumentare il suo impegno con l'editoria e il Papa aveva un po' preteso che si dedicasse appunto alla gestione difficile, diciamo, del cattocomunismo. Comunque appunto la libertà. A un certo punto, nel momento in cui in Italia, parlo di 2-3 anni fa, quindi veniamo a tempi recentissimi, 3-4, diciamo, abbiamo attraversato forse il momento più buio, almeno così lo leggevamo noi, abbiamo ritenuto che fosse importante dare un segno civile alla nostra attività. Noi, appunto, come sa chi collabora con l'edizione di Storia e Letteratura, molto spesso siamo anche noi costretti, poi alla fine, a dispetto del sostegno che ci arriva, a volte anche consistente, da parte della famiglia Codignola, però siamo costretti anche noi alla richiesta di contributi per la pubblicazione di testi di ricercatori sconosciuti che non avrebbero, diciamo, ancorché meritevoli, poi i mezzi per sostenere una pubblicazione da soli. Quindi nei fatti anche noi siamo costretti a questa pratica discutibile. In questo caso, mi preme dire, mi è testimone appunto il professor Gariglio, questa è stata un'operazione, così rispondo alla sua domanda, che sono partito un po' da lontano, però appunto è stata un'operazione appunto totalmente disinteressata. E il senso è quello appunto della sottolineatura di una attività civile che appunto che noi volevamo provare a intraprendere. Quindi l'impegno è quello a stampare un libro al mese più o meno per 10 anni e quindi insomma è un'attività di lungo periodo, però il significato è stato questo ci ricollega alla libertà appunto per certi versi appunto che attribuiamo un po' come messaggio fondamentale all'editoria di Don De Luca, a quella di Gobetti, diciamo, e forse non è un caso, anche se me ne accorgo adesso, che fra i primi 4 libri pubblicati, 2 contengano la parola libertà, la libertà in Italia di Sturzo e la libertà di Stuart Mill. È un caso questo qua, probabilmente solo un caso, ma forse delle volte chi lo sa. Ecco, questa è la cosa. Grazie. Allora, non so se ci sono altre domande. Ecco, c'è un signore lì. Cose che invece la cultura accademica sono pressoché sconosciute. ecco qua. E io voglio fare questa domanda specifica, sì. Ma non sarebbe il caso di scegliere, professor Gentile sarebbe in questo caso un autentico maestro da avviare un giovane studioso, a cercare il sottile collegamento che certamente c'è stato tra Don Giuseppe Gramsci e Gobetti e Gramsci che si conosce, ma approfondirlo, perché è stata una cosa incredibile. Ognuno di questi tre uomini intellettuali di altissimo livello, che più che in Italia, ecco, sono assolutamente apprezzati molto di più all'estero, tutti e tre, in Francia per esempio Don Giuseppe in modo assolutamente strepitoso, Gramsci in Francia, in Inghilterra, in Australia, in America, Gobetti dappertutto, ha ragione il professor Gentile, molto più Gramsci prima di Gramsci, ecco, riuscire a trovare veramente le ragioni di questo incontro che c'è stato, e attorno ad ognuno di questi tre si sono creati gruppi importantissimi e tutti e tre all'insegna della filologia e di una lingua cristallina. Sì, io allora. Questa è una cosa che, diciamo, da un punto di vista scientifico io non posso rispondere, perché non sono appunto attrezzato per farlo, probabilmente qua Fofi e Gentile lo sono ben più di me. Quello che invece posso dire per quello che riguarda i giovani, il discorso dei giovani, questa cosa è a statuto, cioè noi abbiamo... Mi preme raccontare un fatto. Quando io appunto ero nel 1997, feci il cambio dalla terza edizione Storia e Letteratura, rimasi stupito, venni a sapere una cosa sconcertante che mi piace qui raccontare. Cioè, Codignola aveva comprato la casa editrice 2 anni prima e aveva due modi per farlo. Una, tirare fuori cioè farla fallire e con 4 lire rilevare il marchio e il magazzino. L'altra cosa era coprire i debiti, che era una somma molto molto consistente, mi piace dire praticamente siamo intorno, oggi sarebbe intorno ai 700-800 mila euro, quindi una cosa diciamo comunque significativa. E di contro potevano essere altrimenti, non so, 50-60 mila, cioè una cifra enormemente più modesta. Lui volle salvare, volle coprire i debiti prima di tutto perché, cioè fondamentalmente per un motivo, perché altrimenti non sarebbe più stata la casa editrice fondata da Don De Luca con quello statuto e con quelle aspettative. E per esempio nello statuto, e vengo appunto al discorso dei giovani, nello statuto è scritto che si fa obbligo alla casa editrice di due cose. Una è quella appunto di pubblicare gli scritti dei giovani studiosi sconosciuti, è a statuto, quindi nel momento in cui io vedessi che appunto che l'afflusso dei titoli da parte dei giovani, oggi il concetto di gioventù dello studioso è un po' calato, è un po' cambiato, sappiamo appunto che la carriera universitaria è diventata così lenta per cui si resta il concetto di gioventù appunto è mutato. Però uno è questo, e quindi io sono vincolato da un obbligo preciso, da un obbligo statutario. L'altra cosa poi, che invece appunto non risponde in questo momento alla sua domanda, è quella che appunto per Don De Luca il concetto fondamentale è quello della fruibilità della cultura, per cui lui la collana principale non è una collana di saggi importanti, la collana principale che ha il nome della casa editrice Storia e Letteratura è una collana di raccolta di scritti che altrimenti, lui dice, sarebbero non facilmente reperibili, perché distribuiti appunto in 1000 riviste diverse. Lui fa di questa collana il centro della casa editrice, ecco, per cui si pone come obiettivo. Però appunto il discorso che ora, questo appunto è altra cosa, anche questa però appunto è a statuto, insieme a questo discorso dei giovani, appunto dell'obbligo diciamo di facilitare le pubblicazioni dei giovani studiosi, ecco. Per quello che riguarda il legame appunto Gramsci, appunto io so soltanto che Don De Luca, tramite Franco Rodano, e poi ieri c'è stata una testimonianza bellissima, quella di Adriano Sicini, che credo probabilmente insieme alla Rodano medesima, probabilmente sono gli ultimi due del gruppo, credo che fossero 12-13 fra deputati e senatori rodaniani, diciamo. Poi c'era Gabriele De Rosa che, come sapete, poi è scomparso, no? Non da molto, però diciamo, quindi questo suo rapporto appunto anche così difficile con Togliatti, io so soltanto che si trovavano o in via Nazionale o in via 4 Novembre, poi si facevano a piedi urlando, poi Don De Luca diceva molte parolacce come sappiamo, e poi arrivavano fino ai Tre Scalini al bar in piazza Navona, prendevano un gelato sempre urlando come aquile, diciamo, dicendosi di tutto, però poi appunto credo anche stimandosi poi nel profondo, insomma, ecco. E so che Gramsci era argomento costante di discussione, però poi io appunto non posso andare oltre. Vorrei sapere dal professore Gentile, cioè, per Gramsci, i maestri di Gramsci sono stati, forse pochi lo sanno, sono stati Tizzi e poi Gentile, poi è diventato marxista, eccetera, eccetera. Vorrei sapere invece per Golgetti, i suoi maestri, oltre ai Naudi, chi sono stati? Chi è stato Pittiano, Gentiliano? Cosa era di informazioni ci aveva? Ma credo che non sia necessario fare grandi studi, perché lui lo dichiara esplicitamente. Sia in Energie 9 lui dichiara esplicitamente che i suoi maestri sono Prezzolini, Einaudi, Salvemini, poi Gentile, Croce. Con Gentile il fascismo distrugge questa, anche la stima che lui ha per Gentile, ma non si capisce Gramsci, non si capisce Gobetti senza Gentile più che Croce. E sono molto più gentiliani che crociani, proprio per questo senso di cultura militante, che poi Gentile rivolge al fascismo, Croce all'antifascismo, ma Croce rifiutava la cultura militante. Lui non è interventista, cioè, diciamo così, semplificando rozzamente da un ex studente di filosofia, insomma, il distinto per Croce era diverso dall'atto puro di Gentile che portava all'immanenza politica. Quindi loro l'hanno sentito molto, del resto la rivoluzione contro il capitale di Gramsci è un articolo tipicamente gentiliano, dove si dice, mi pare, che il movimento operaio è l'erede della filosofia idealistica tedesca e italiana. Quindi, per Gobetti i maestri sono questi, ma lui lo dichiara apertamente, lo dice continuamente, perché sente il bisogno. Anche questo è un aspetto che probabilmente appartiene a una moralità culturale ormai desueta, cioè di dichiarare apertamente i debiti dei propri maestri nel momento stesso in cui poi, come nel caso di Prezzolini, sente di essere, come lui dice, anche ingiusto e ingrato, cioè quando non c'è più nessun rapporto di discepolanza, o nel caso di Gentile ancora più feroce, insomma. Quindi lui sono chiari i suoi maestri, poi evidentemente ci sono anche quelli che lui cercava nel suo Piemonte. Il Sorgimento senza eroi, che io contesto come libro di interpretazione del Sorgimento, è una riscoperta di una autoctonia, per così dire, del liberalismo italiano, che però è sempre in chiave molto gobetiana. Ecco, quelli che discutono il suo Vittorio Alfieri, ma anche il suo Luigi Ornato, anche il suo Cavour, sono sempre immagini che lui costruisce con conoscenza storica, ma in cui lui soffia la sua anima, li vede come protagonisti del suo mondo ideale, per cui preferisce gli intransigenti ai transigenti, e nel caso di Cavour si inventa il grande tessitore, che però in realtà anche lui è un intransigente, che è vero. Quindi Gobetti ha molteplici maestri, poi lui si richiama Marx, si richiama Pareto, si richiama Mosca, ma dichiara che ognuno di questi, ecco, di Marx lui non accetta assolutamente tutta la previsione catastrofica, ma la robustezza del realismo politico, che è la stessa cosa che lo porta ad ammirare Pareto e Mosca, perché sono teorici della classe politica, dell'oligarchia dirigente. Lui non crede alle masse, vuole emancipare ma non crede alle masse, e soprattutto quello che la cosa di Sorelle, di Pareto, il mito, perché si accentua molto l'intellettualismo di Gobetti, ma le sue frasi che fanno riferimento a dobbiamo creare i miti moderni lo riportano a Prezzolini, che nel suo idealismo militante sosteneva basta con la religione cattolica nelle scuole, creiamo una mitologia storica, cioè di figure storiche. Gobetti questo vuole fare, questo cerca di fare, però allo stesso tempo, che il suo dilemma, il suo dramma, la giovinezza gli era probabilmente fatale in questo caso come processo di maturazione, non risolve questo problema. Come si creano dei miti senza fingere di crederci? E se si finge di crederci non si è più coerenti e intransigenti. e il suo dramma è di voler creare dei miti per la classe dirigente nuova, cioè il movimento operaio, addirittura ponendosi al di fuori del movimento operaio e scegliendo lui poi chi sono i veri artefici gobbettiani. Basta leggere la sua bellissima descrizione che lui fa della lettera a Prezzolini del gruppo dell'Ordine Nuovo, ed è bellissimo perché lui individua psicologicamente tutti, no? Il suo amore totale è Gramsci. Togliatti è quello abile politicamente, Tasca è quello che già tresca. Ecco, c'è da dire che in Gobetti questa esigenza di, in fondo che era un po' anche, derivava anche dal suo cattivo maestro, come sai, da Uriani, cioè questo interpretare drammaticamente la storia e vedere anche delle persone reali qualcosa che rappresenti un'idea, un ideale, una coerenza. Ecco perché lui sceglie non tutti gli antifascisti, ma Amendola. Perché non sceglie Turati? Lui detesta Turati. Sarà che gli deriva da Salvemini, un po' questo odio per i riformisti che non erano né acqua né pesce. Però poi riconosce che probabilmente con Turati la via sarebbe stata diversa invece del massimalismo. Ma lui crede soprattutto in questa, e questo è tutto gentiliano se vogliamo, o marxiano, non lo so, questa attività continua, la storia come creatrice continua di classi dirigenti. È quello che lui vedeva. È quello che lui cercava, e quando trovava dei simboli che incarnavano perfettamente nell'essere reale, come Amendola, il suo rigorismo, come Sturzo, la sua coerenza di confronto ai compromessi cattolici, lui li adottava come gli esponenti di questa nuova aristocrazia che avrebbe potuto portare l'Italia a un livello più alto, se ahimè non fosse finita poi sotto le mani di un domatore. In questo credo che lui abbia avuto molti maestri, ma sia rimasto fondamentalmente gobbettiano. Nel senso che alla fine anche i suoi maestri finivano con l'essere i suoi discepoli, e quando non rispondevano a ciò che lui pensava dovessero essere, li scacciava via come traditori o come disertori. Basta vedere quello che fa con Gentile, quello che fa con Prezzolini. Questi, poi non sono un competente di Gobetti. C'è forse un'altra domanda lì? Sì, sì, sì. Per una domanda. Volevo un ringraziamento all'editore, nel senso, ma mi scuso con lei, è persona di grandissima civiltà. Io volevo ringraziare Federico Perino, che è stato un mio grande amico, sotto su oggi che è morto. E insomma, quando io ho visto la notizia che c'era questa nuova iniziativa, io ho pensato, mi riferisco al caso, ho pensato, la casa editrice giusta per pubblicare è questa di Federico Del Nono, che io avevo visto quando aveva abbandonato questa raccogliere, ha abbandonato la Rizzoli, forse un po' di insomma, aveva fatto la Rizzoli, aveva lasciato la sua casa editrice, però portando anche lo spirito, diciamo, però avevo incontrato qui e lui mi aveva spiegato, perché io avevo i giudizi, dico sinceramente, nei confronti e lui me lo spiegò per quale motivo aveva fatto questo tipo di scelta. E lo vedo di una coerenza assoluta. Io con lui frequentavo uno che consideravo un mio piccolo maestro, grande maestro, che era Alberto Mora di Lariano, che forse molti di voi conosceranno, o anche avranno conosciuto anche personalmente, che ma voglio solo ricordare questa cosa che è molto carina. Io incontravo Mora di Lariano una volta a settimana, io gli raccontavo la politica contemporanea e lui mi raccontava la politica del 20, 22, 24 eccetera, e mi raccontò un fatto che non so se tutti sanno, che il giorno della marcia su Roma Morra di Lavano prese il treno per andare a incontrare un ragazzo che stava a Torino e si chiama Piero Gobetti, e proprio quel giorno questi treni venivano da una parte e guardavano dall'altra parte, quindi poteva viaggiare comodamente, diciamo, molto metaforico direi, come cosa. E nacque di là un'amicizia che portò, poi dopo Morra perse le lettere, poi le ritrovate in una vicenda fantapolitica addirittura, perché i nazisti bruciarono tutte le carte, aveva con tutte le lettere, eccetera, e Gobetti disse che aveva incontrato in Morra uno dei giovani più colti di tutta l'Europa, cioè per dire che la gioventù italiana all'epoca era sostanziosa, non a caso che poi lo stesso Morra poi ha fatto capo del diritto di parte, e da, come prima si era chiuso in casa perché era andato in fascismo, poi si è rinchiuso in casa perché con la fine dell'esperienza Barbi sostengono, secondo me non anche estremamente, che il Corvetti non è liberale, nel fatto del rapporto con Luigi Einaudi. Io sinceramente non so dire se il Corvetti ha imparato da Einaudi, che appunto era una generazione. Credo che fosse il suo professore all'università. Il suo professore, o viceversa. Però vorrei ricordare solo un titolo, le lotte, non solo le lotte del lavoro, ma la bellezza della lotta. Per cui anche Einaudi è tradito in quello che è proprio il significato profondo che lo ha spostato, e che secondo me si identifica con lo spirito più profondo del liberalismo, che è la bellezza della lotta, che è Govetti, appunto, è Einaudi. Grazie, ora non so se ho visto che Goffredo Fofi prendeva appunti, ha riempito altre due pagine. Non so, forse dobbiamo chiudere e allora c'è soltanto il tempo per i saluti e per i ringraziamenti a tutti coloro che sono intervenuti.